per farne un'altra. Andava alle corse per vincerle o per essere protagonista. Penso che un campione che ha vinto nel 1938 un Tour de France e lo ha rivinto nel 1948 dopo un bruttissimo conflitto mondiale sia da additare. E da additare anche il suo primo campionato italiano vinto nel 1935 e rivinto poi nel 1952 a 17 anni di distanza, e sono cose che passano generazioni, e lui ha fatto sempre fronte a tutte le generazioni fino a che nel 1954 non smise la sua attività, un'attività di 25 anni. Ma con Coppi fu proprio così nemico o in fondo c'era una stima? No, diciamo, non nemici, ma nemmeno grandi amici. Erano due che avevano fatto dividere l'Italia in due fazioni, i Bartaliani e i Coppiani. Erano due che forse non erano indicati tanto per andare a prendere il caffè insieme, però si rispettavano, avevano un gran rispetto l'uno dell'altro, ecco, rispettavano i loro valori, sia sotto il profilo umano sia sotto il profilo sportivo. E mai che io sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Italia in controluce. Oggi, proprio oggi, la Scala di Milano apre al pubblico, però attenzione, in segno di protesta contro il decreto sulle fondazioni liriche, apre al pubblico per le prove dell'Oro del Reno di Wagner. Daniel Barenboim, uno dei direttori d'orchestra più famosi al mondo, ha detto: la musica non è un fatto elitario, ma arriva a tutti. Non ha dunque senso, aggiungiamo noi, pensare di tagliare risorse per un settore che rappresenta l'Italia nel mondo. Adriana Fracchia. Dopo Zubin Mehta, che si è schierato con il Maggio Musicale Fiorentino per protestare contro il decreto di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche il maestro della Scala, Daniel Barenboim, ha voluto dire la sua contro il provvedimento del governo. Il grande direttore, che il prossimo agosto festeggia i 60 anni di carriera, ha indetto una conferenza stampa con al suo fianco il sovrintendente scaligero Stéphane Lissner e ha detto di essere molto preoccupato. Tutte queste cose sono delle cose che faranno un danno enorme alla qualità della vita musicale di questo paese, e non ho bisogno di ricordare a nessuno qual è il ruolo dell'Italia. Quando nel mondo si pensa all'Italia, a chi si pensa? Si pensa a Dante, si pensa a Leonardo, ma si pensa anche a Verdi, al Mozart italiano. Dunque è un segnale molto negativa per l'Italia prendere delle decisioni che possono veramente avere un effetto negativo sulla musica, la vita musicale nel nostro paese. Per Barenboim la musica è un'espressione fisica dell'anima e chiede ai politici di guardare alla cultura e alla musica come ad una necessità e di investire nell'educazione. La musica ha una qualità speciale verso le altre arti. È una cosa viva. La società di oggi, la qualità di vita dipende anche dell'interesse e della possibilità di vivere dei momenti molto importanti con la musica per ognuno di noi. Siamo anche in un momento difficile perché l'educazione musicale purtroppo è quasi spenta, e non bisogna dimenticare che la musica non è soltanto qualche cosa per accompagnare la pubblicità in televisione. La musica, la grande musica, la vera musica è un'espressione fisica dell'anima, dell'anima dell'essere umano. Ed è questo che bisogna veramente sottolineare. E penso che anche i problemi finanziari di tutti i paesi, in questo senso l'Italia non è da sola in questo dramma, i problemi saranno molto più facili da risolvere invece di tagliare soltanto, a anche fare un'investizione sull'educazione. È questo che manca. La musica è tutto altro che elitista. L'ho sempre pensato, e se ho mai avuto un dubbio su questo, se me ne è andato fuori quando ho incominciato un programma di educazione musicale a Ramallah. E quando si vede il risultato di questi bambini, per cui un'ora al violino significa un'ora via della violenza, mi rendo conto che la musica non è un lusso e la musica non è elitista. la protesta contro il decreto di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, non più solo scioperi, ma teatri aperti al pubblico, con la possibilità di assistere alle prove dell'Oro del Reno, diretto proprio da Daniel Barenboim, che dovrebbe debuttare il 13 maggio prossimo. Per il maestro Scaligero un'idea molto positiva, perché dimostra la volontà di aprire la Scala. Aprire le porte è una proposizione artisticamente molto positiva, e penso che anche una dimostrazione anche che le cose negative che stanno venendo fuori, gli spettacoli che cadono, questo è soltanto parte del problema. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia oggi Pietro Lacorte. Potete trovare tutti i nostri servizi andati in onda sul sito radio24.it. Buona giornata, ci sentiamo domani, adesso vi lasciamo ad America 24.